trovarti mai sincera. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme e poi di sera vicino, vicino a me tremi un po'. Non cercare di negare che stasera magari se insisto io ti avrò. Così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola e fragile ma in fondo sei molto più forte di me. L'apparenza gioca contro me, lo vedo. Figurati se ci stai tu con me. Non sei cosa che può diventare mia davvero. Però se ci filo io dietro te, così piccola e fragile mi sembri tu e sto sbagliando di più. Così piccola esponi i tuoi problemi, poi ridi e ti neghi a me, ma io ti avrò. Così piccola